Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Oggi iniziamo la prima di due puntate incentrate sul tema dei morti e degli infortuni sul lavoro. Prenderemo spunto dal primo rapporto dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, sulla tutela delle vittime del lavoro e dai suoi spaventosi dati per far capire cosa si fa in materia di sicurezza sul lavoro oggi in Italia. Come affronta questa emergenza il governo di questo paese? Chi è preposto a far rispettare le leggi in vigore, soprattutto negli ambiti aziendali? E quanto influiscono le tipologie contrattuali attualmente previste nel discorso salute e sicurezza? Quali, insomma, sono le categorie che maggiormente vengono colpite da questo fenomeno? Sentiremo con un contributo telefonico da un lavoratore precario cosa sta realmente accadendo oggi. Per finire, cercheremo di analizzare un saggio che ci sembra molto pertinente di Filippo Viola sulla società astratta. Oggi con voi in studio Cristiano alla voce e Andrea in regia. Morti e un disperso, un operaio che manca tuttora all'appello. Questo è il pesante bilancio dello scoppio avvenuto ieri alla Flobber, una fabbrica di munizioni per armi giocattolo di Santa Anastasia, un comune alle spalle del Vesuvio. I feriti sono 10, 2 hanno riportato gravi ustioni, 5 sono donne. Il ministro dell'Interno ha disposto un'inchiesta, ma sembra già accertato che nella fabbrica di Santa Anastasia si procedeva a lavorazioni non autorizzate di esplosivi per micidiali armi giocattolo. Al momento del primo scoppio, alle 13.25 di ieri, nella fabbrica si trovavano 60 persone, in maggioranza donne. Nella baracca, vicino alle 200.000 cartucce già preparate, si trovavano 13 operai, scaraventati dall'esplosione fino a 100 metri dal luogo dove lavoravano. 11 sono morti, uno è ferito, uno è disperso. Stamattina si stanno cercando sue notizie o sue tracce sotto le macerie polverizzate. Finora è stato possibile identificare con certezza soltanto 5 delle 11 vittime. 10 dei morti erano stati assunti appena 2 settimane fa, non erano più contadini, non erano ancora operai. Per sfuggire alla disoccupazione e alla miseria, avevano accettato un compromesso con la morte, lavorando in uno stabilimento che, nonostante leggi e regolamenti, si è dimostrato insicuro, al pari delle micidiali baracchette dove si fabbricano fuochi d'artificio. How many miles away, how many miles? Schiacciato da un nastro trasportatore, schiacciato da un silos di malta, inghiottito da uno smottamento, colpito alla testa da una putrella, schiacciato da un carico di lastre di granito, caduto dentro un silos per la lavorazione del cemento, precipitato nella tromba dell'ascensore, infilzato da un ferro, sepolti vivi da una frana, travolto da un carico di ghiaia. Queste sono soltanto alcune delle casistiche che sono accadute appunto nell'edilizia nel 2006. Tra gennaio e novembre dello scorso anno, secondo i dati provvisori disponibili, abbiamo dovuto contare 1.141 morti sul lavoro, appena 14 in meno di quelli che segnalano i dati ben più consolidati dello stesso periodo del 2005. Con un aspetto preoccupante da sottolineare, il calo è in agricoltura, mentre nel settore industria e servizi, in cui si contano il 90% degli incidenti, si registra una crescita che è costata 24 morti in più, oltre il 2% di aumento. senza contare il fatto che le statistiche ufficiali non riportano mai il numero dei morti per malattie professionali. Tra il 2001 e il 2006 sono state 873 i decessi riconosciuti dall'INAIL come provocati da malattie contratte nei luoghi di lavoro e di questi ben 619 dovuti a tumori causati dall'esposizione all'amianto. Cammineta tristezza, ma volendo parezza, lui povero operaia che t'hanno tutta brucia. Quando arriva ne parienta. Diamo uno sguardo all'Europa che dovrebbe dirci che quello che facciamo non basta. Negli ultimi 10 anni, secondo i dati Eurostat, i morti sul lavoro sono diminuiti del 46% in Germania e del 34% in Spagna, ma solo del 25% nel nostro paese. Il risultato è che nel 2004, l'anno più recente su cui fare un confronto, nessuno ci batte per morti sul lavoro: 944 in Italia, 804 in Germania, 743 in Francia e 722 in Spagna. Sempre dalla presentazione del medesimo rapporto veniamo a conoscenza che i risparmi sulle prestazioni erogate in favore degli invalidi del lavoro ed il surplus di risorse costituite dai premi assicurativi pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi hanno contribuito al risanamento del deficit di finanza pubblica, trasformandosi in un tesoro da circa 12 miliardi di euro al quale attingere da più parti. Dobbiamo infatti dire che a causa della riforma realizzata con il decreto legislativo 38 del 2000, con il quale è stata introdotta in via sperimentale la copertura del danno biologico, salutata come un intervento che si annunciava migliorativo per la definizione delle rendite, nella sua applicazione concreta si è ritrovata invece a garantire prestazioni migliori per le grandi invalidità e per quelle permanenti, che fortunatamente rappresentano un numero esiguo rispetto alla gran massa degli infortuni, ma per la stragrande maggioranza degli incidenti con esiti di minore gravità ha comportato un netto ridimensionamento del livello delle prestazioni in rendita, se non addirittura la trasformazione dell'indennizzo da rendita a capitale liquidato una tantum. Per fare un esempio, un lavoratore infortunato che perde tutte le dita della mano destra, nel caso abbia moglie, un figlio a carico e una retribuzione superiore alla media, percepisce il 14,33% di rendita in meno, circa 2.440 euro l'anno, rispetto al regime precedente al decreto 38 del 2000. Dunque, grazie a questa riforma, che da sperimentale si è trasformata in definitiva senza alcuna verifica intermedia, l'INAIL ha potuto risparmiare negli anni tra il 2001 ed il 2006 oltre 272 milioni di euro. Home. Il paradosso sta tutto qui: mentre aumentano gli incidenti sul lavoro e gli incidenti mortali, aumentano anche, questo è abbastanza inspiegabile, i risparmi dell'INAIL stesso. Come possiamo vedere, qui parliamo di numeri che sarebbe molto più semplice ad attribuire ad una guerra che ad una forma comune di sostentamento come il lavoro, ma evidentemente della estrema gravità della situazione non se ne accorgono i governi, visto che a Napoli a fine gennaio si è tenuta la seconda conferenza sulla sicurezza sul lavoro e il tutto è stato incentrato più che altro a rendere molto spettacolare tutto l'impianto della conferenza, relegando ai margini e talvolta non includendo del tutto le figure che da tutto ciò vengono colpite in modo diretto, quindi i lavoratori, i loro rappresentanti, le cosiddette RLS, ma soprattutto le famiglie colpite da queste vere e proprie tragedie. Ci ricollegheremo più avanti a questo modo di gestire il problema da parte dello Stato. Ma vediamo quali sono le tipologie maggiori relative agli infortuni sul lavoro mortali. Partiamo con la casistica maggiore, che è quella di problemi elettrici, delle esplosioni, delle fuoriuscite, delle rotture, passando dalle cadute dall'alto, quindi da tetti, impalcature, scale, oppure la caduta di oggetti, quindi vittime statiche riguardo agli oggetti, oppure la perdita di controllo di mezzi di trasporto, o il crollo di oggetti sotto la vittima, quindi il suolo, il ponteggio e il pavimento, per finire con la perdita di controllo dei macchinari. Abbiamo sentito spesso e soprattutto in concomitanza con le tragedie più mediaticamente rilevanti interventi in merito da parte del presidente dello Stato o del politico di turno o le rimostranze dei sindacati sempre molto decise e puntuali che parlano della richiesta di interventi e di controlli e è chiaro che tutto ciò avviene sempre in presenza di incidenti mortali. Mentre si bypassano i molteplici e sempre troppi incidenti che procurano ferite gravi o mutilazioni permanenti. A quasi 13 anni dal varo della legge 626 sulla sicurezza, l'Italia vanta ancora il primato europeo delle morti bianche e degli infortuni sui luoghi di lavoro. Evidentemente, se tutto ciò è possibile, seppur in presenza di una legge che dovrebbe regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, legge pur discutibile, ma comunque una legge con tutto il suo apparato sanzionatorio, evidentemente chi è preposto al rispetto della 626 o è una figura incapace di farlo, o è una figura che da sola non basta, o è soltanto una figura burocratica. La nostra opinione è che ci sia una commistione di tutto un po' quanto precedentemente detto, senza nulla togliere alla buona volontà di molte RLS, dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, così come appunto vengono chiamati, che spesso occupano una posizione delicata, sempre in costante difesa dagli attacchi da parte dei loro datori di lavoro, spesso in balia di licenziamenti ad hoc per via delle loro denunce e paradossalmente visti a volte come il solito rompiscatole di turno che impone l'uso dei vari dispositivi di protezione individuali. Appare abbastanza evidente che una sola figura di questo tipo non può essere sufficiente per denunciare i continui atteggiamenti lacunosi, se non del tutto assenti, delle varie aziende, soprattutto quando questa figura è quasi sempre scelta nel ventaglio dei sindacalisti esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative, che equivale a pescare nell'enorme bacino di quelle strutture che da decenni contribuiscono a disintegrare i diritti sindacali e le libertà individuali tanto faticosamente raggiunte dopo aspre lotte nel corso degli anni passati. Stiamo evidentemente parlando della triplice alleanza CGIL, CISL e UIL. Condirei il tutto con una considerazione circa le strutture pubbliche preposte alla vigilanza e all'ispezione dei luoghi di lavoro, come l'INPS, l'INAIL, l'ISPESL, gli ispettorati del lavoro, i vigili del fuoco, i comuni, le province, eccetera, che, provare per credere, su sollecitazione dei lavoratori rispondono con interventi molto ritardati nel tempo, quando intervengono, e curiosamente a volte quando intervengono sembrano illuminare di giustizia le aziende stesse, che in 448 risolvono così i loro problemi meno strutturali, evitando spesso di incorrere in sanzioni di alcun tipo. I più volenterosi di questi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tenacemente si confrontano tra di loro e arrivano a conclusioni quali appunto rivendicazioni su piattaforme, richiedendo più personale ispettivo nelle ASL e nei dipartimenti provinciali e regionali del lavoro, più fondi economici da destinare alle ASL e ai dipartimenti per espletare nel miglior modo possibile il loro lavoro, abrogare la riforma dei servizi ispettivi voluta dal governo Berlusconi, il ripristino della diaria e rimborso benzina per andare a fare le ispezioni che erano stati tagliati con la finanziaria sempre del governo Berlusconi, più formazione per gli RLS e i lavoratori, una legge seria sugli appalti e i subappalti e soprattutto anche una legge sulla rappresentanza sindacale. Continueremo il discorso sul tema centrale dei morti del lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro alla prossima puntata della prossima settimana. Per oggi è tutto, un saluto a tutte e tutti e appunto appuntamento alla prossima settimana.